Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21 passate da 4 minuti, oggi è giovedì 12 luglio 2012, buonasera da Agostino Spolaore, buonasera come di consueto anche dal collega, chiamiamoti così, posso? Sì, beh, stavolta un più vecchietto, ma collega, già collega. Risultato ma superiore stasera. Ciao Maurizio Calzavara con noi, come sempre, con voi, meglio dire, all'ascolto. E questa sera è una serata bellissima, abbiamo un grande artista a livello internazionale, non solamente italiano, quindi abbiamo l'onore di avere qui un grande pianista, come dicevo, e c'è Andrea Pozza. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Qualche istante che devo passare qualche dato, poi saremo totalmente con te Andrea. Allora vi ricordo i nostri numeri telefonici con il studio, lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri sms, se arrivano Andrea te li possiamo girare, magari qualche domanda, qualche ascoltatore se te la vuole fare. Assolutamente sì. Quindi liberissimi quindi di chiedere qualcosa al nostro artista di questa sera. Vi ricordo il nostro numero di sms 346 23 20 033. Le nostre frequenze 88 700 e 94 600 MHz in modulazione di frequenza, e poi ancora il nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it, lì ci potete ascoltare 24 ore su 24, assolutamente in diretta, tutti i giorni, ovviamente in streaming in qualsiasi momento perciò. E oltretutto troverete anche le notizie, informazioni, recensioni e quant'altro per quanto riguarda la musica e anche i fatti che accadono nella nostra regione, cioè il Veneto. E poi vi ricordo ancora le nostre pagine di Facebook, cioè semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, il nostro direttore artistico, che come di consueto succederà dopo questa chiacchierata e questa showcase, dice così, questa sera, cioè dalle 22.30 fino alle 24, con la sua musica rock. Credo di aver detto tutto, adesso diamo spazio a questo, come dire, grande artista. Posso passarti questo nomignolo? Ma io ti ringrazio tantissimo. Sei gettonatissimo. Io mi sono documentato un po' come Maurizio, penso, insomma, abbiamo trovato un sacco di cose che hai fatto alle spalle, quindi cioè, ci vorrebbe una serata intera, ma lunghissima, per raccontare tutte le tue esperienze. Purtroppo sono un po' tantini gli anni che faccio questo mestiere. Sì, infatti 25-30 parlavo. Siamo su quel... Su quell'attacca lì. Sì, su quell'attacca lì. È cominciato giovanissimo, a 13 anni, con un incontro con Rosario Bonocorso a un seminario di Gaslini. 13 anni, ragazzi, state attento, 13 anni. Sì. Però sei entrato giovanissimo nel jazz. Sì, io sono entrato proprio dalla culla. Dalla culla, perché esatto. Grazie a mio papà, che aveva già qualche centinaio di dischi, di... LP, allora c'era LP, c'era, mi ricordo che lui mi ha così un po' fatto nascere questa passione, che mi ha messo anche un po' sul pianoforte senza mai forzarmi troppo, però incoraggiandomi, diciamo così. E poi a un certo punto mi ricordo che mi scrisse, c'era un brano che si intitola Manhattan, è uno standard jazzistico degli anni 30, e lui mi scrisse la melodia e poi una improvvisazione scritta, però. E io da quella improvvisazione scritta poi cominciai a cambiarla un po' così a mia ispirazione, e imparai così a improvvisare, proprio avevo 5, 6, 7 anni. E poi da lì, insomma, tutte le cose sono venute abbastanza naturali, senza scosse, sono entrato nella professione del musicista. Rosario diceva che lui aveva 22 anni e tu ne avevi 13 quando ti ha conosciuto, quindi... Eh sì. Un rapporto che dura tuttora con Rosario, praticamente. Assolutamente, difatti devo suonare con lui fra qualche giorno, e su il suo bellissimo quartetto con Fabrizio Bosso e Nicola Angelucci. E, ci conoscemmo al seminario di Giorgio Gaslini a Diano Marina, e è nato subito un feeling che poi abbiamo portato avanti per tutti questi anni, con qualche pausa. Però soprattutto all'inizio e adesso ultimamente stiamo suonando veramente tanto e ci stiamo divertendo molto a fare musica insieme. E tu hai parlato di improvvisazione. Jazz è un perno fondamentale, l'improvvisazione nel jazz. Cosa dici, Andrea? Assolutamente. Il jazz, diciamo, è caratterizzato da questo aspetto, che se noi facciamo il parallelo con la lingua parlata è quello che noi facciamo in questo momento. Ad esempio stiamo improvvisando. Certo. Abbiamo chiaramente sì. Abbiamo un tema da sviluppare, e lo improvvisiamo. E così si fa nel jazz. C'è un tema e poi dopo si improvvisa su quegli accordi, su quelle melodie che vengono un po', diciamo, ispirate dal tema iniziale. Quindi dal vivo è così sempre o quasi? Sì, dal vivo... Cioè tu hai uno schema, un disco per esempio, parlo di un disco che è pubblicato di recente, riesci, quando sei dal vivo, vai oltre il disco, improvvisi oltre il disco al tema conduttore, puoi andare fuori? Assolutamente sì. Sì, la musica, diciamo, jazz, sì, è proprio questo, anche il divertimento, si trasforma di volta in volta. E la cosa più bella è, difatti, quando si ha un gruppo, un progetto, avere la possibilità di suonare per tante sere di fila, perché veramente la musica si trasforma, cresce, puoi scoprire delle cose di giorno in giorno che la arricchiscono sempre di più. Ecco, mi ricordo qualche anno fa ho fatto parte del gruppo di Enrico Rava e mi ricordo all'inizio la musica era nuova e quindi insomma non era facile tutte le sere. Poi non avevamo proprio concerti tutte le sere di fila, no? Mentre invece poi abbiamo avuto l'occasione di fare una tournée in Inghilterra di 15 giorni, abbiamo suonato 12 giorni di fila e dopo i 12 giorni veramente il gruppo era decollato come mai prima, perché proprio il fatto di essere costretti a essere creativi per così tante serate di seguito ti porta veramente a trovare, diciamo, trovare quello che devi trovare. Hai detto una bella frase, essere costretti a fare i creativi. Adesso, visto che sei qua anche te, adesso prendiamo spunto. Io le volevo, già che hai indicato la terza persona che è in studio con te, volevo fare anche dei ringraziamenti, se mi consenti, Andrea. Innanzitutto Daniele, che ci ha permesso di avere qui una tastiera in modo da poter dare spazio alla tua, insomma, alla tua arte, alla tua musica. Quindi un grazie a Daniele Bruno. Ciao Daniele. Da parte mia. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Grazie a te, Agostino, per questa meravigliosa occasione che mi dai di essere qua con Andrea. E sono proprio al suo fianco, sì. Grazie Daniele. No, veramente mi è piaciuta moltissimo l'affermazione di Andrea quando si diceva che lo stesso pezzo in diverse serate può assumere una connotazione totalmente diversa. E è come dire che paradossalmente uno potrebbe andare a sentire lo stesso concerto, tutta la tournée sentirebbe lo stesso pezzo in maniere diverse. Penso che questa sia un'emozione per chi, come me, insomma, vive emozionalmente la musica. Penso sia un'emozione veramente grande, vero Andrea? Tu mi dai anche tu sì, la conferma, insomma. È il bello della musica jazz, è questa possibilità veramente di reinventarsi ogni volta. Certo. Ci sono anche dei rischi, perché a seconda di quanto, diciamo, quanta creatività e di quanto ti metti in gioco, rischi molto. Se tu hai la pretesa di essere creativo in alto grado, rischi di più. Se ti capita la serata che non sei tanto ispirato, lava male. Puoi anche fare un po' male. Esatto. Ma il rischio è anche gli ascoltatori, cioè il pubblico che conosce il pezzo nel disco, può anche, cioè anche questo è il rischio. Potrebbe anche non riconoscerlo. Normalmente almeno la parte iniziale, che è il tema del brano, è abbastanza riconoscibile. Poi dipende un po' che tipo di jazz fai, ci può essere anche un jazz che tende un po' anche a andare oltre questa cosa qua e quindi a nascondere anche un po' i temi più famosi. Ecco. Certo. Entriamo in questo volo di gabbiano, Andrea, ci ascoltiamo molto qualcosa. Volentieri. Questo tuo ultimo disco è assolutamente un disco tutto tuo, o quasi, insomma. Sì, è un progetto, l'ultimo disco che è uscito a mio nome è la cosa, diciamo, più impegnativa, è il progetto più impegnativo in cui mi sono impegnato fino adesso, perché fino adesso avevo sempre fatto parte, sempre con fatto dischi in trio, certo, in piccole formazioni, invece questo qua è un quintetto, e quindi, diciamo, la tavolozza espressiva si amplia. E ho deciso di riunire questi musicisti, ci sono due musicisti inglesi e due musicisti olandesi con i quali collaboro da tanti anni separatamente, no? E con i quali mi trovo molto a mio agio. Ho deciso di condensare, diciamo, questa collaborazione separata e unirla in questo progetto. Vogliamo ascoltare qualcosa da questo progetto, poi magari parliamo dei tuoi collaboratori, chiamiamoli così, del tuo quintetto, insomma. Senz'altro. Cosa ci ascoltiamo? Cosa hai scelto? Avrei scelto Serpent, che è? Che è un brano di mia composizione, e è il secondo che viene ascoltato nel CD. La seconda traccia. L'arrangiamento è del sassofonista, il tenorista, che è Dick de Graaf. E niente, buon ascolto. Ascoltiamo. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo sempre in diretta qui a Blu Radio Veneto con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con questo artista, questo grande artista, cioè Andrea Pozza, e il suo nuovo progetto che si chiama Girls Flight, cioè in questo volo di gabbiano. Siamo entrati in questo progetto con questo Serpent, la traccia numero 2 di questo disco, che vi ricordo è tutto composto da lui e da Dick De Graff, se non sbaglio, giusto? Esatto. Ah, mi sono documentato, come dicevo. La prima volta che fai una cosa così... Tua, dicevi prima. Sì, è un progetto un po' ambizioso. No, perché? Perché appunto è la prima volta che faccio un progetto che va al di là del trio. Prima ho inciso in duo, ho inciso in trio, ho inciso in quartetto o anche con gruppi più grandi, ma non come leader. Cioè, invece, hai fatto anche un disco con una carissima amica di questa emittente, Andrea Celeste, che salutiamo. Salutiamo tanto Andrea Celeste. Poi hai suonato con un sacco di gente, anche Alan Farrington mi viene in mente, un altro che senz'altro, è un mitico di Padova. Amici, grandi personaggi e musicisti che io stimo tantissimo. Quindi, insomma. Con cui mi fa sempre piacere collaborare. Certo, ti rubo qualche secondo, Andrea, anche per dare un altro ringraziamento. Se tu sei qui, ovviamente devo ringraziare una persona, cioè Stefania Schintu, che mi ha veramente dato il tuo contatto e insomma ha proposto il tuo nome, insomma ha collaborato con noi e la sua Top One Communication. Quindi ciao Stefania, un grazie di cuore per averci regalato questa chicca, se si può dire così, questa sera, insomma. Assolutamente, anch'io li ringrazio tanto, Stefania e Gianni. Questo è un pezzo scritto totalmente da te, però è arrangiato da Dick De Graff. Chiaramente c'è l'improvvisazione, però lo schema è partito da te, poi chiaramente le cose si sono sviluppate da uno schema iniziale, poi si improvvisa, si trova lo spazio per la batteria. È molto interessante, il batterista è giovane ed è molto valente, si sentiva questo rullato continuo, questo stop and go continuo. Nel rock si chiama stop and go, fermata e ripartenza. Ecco, il batterista è uno dei miei batteristi preferiti sicuramente, si chiama Shane Forbes, è una rising star della scena jazzistica londinese. Quindi inglese, puro sangue praticamente. Inglese, sì, tra l'altro, un po' di gossip, sì, non sta mai male. Possiamo dirlo, sì. È il figlio dell'ex campione europeo, campione britannico dei pesi medi. Quindi io normalmente faccio delle battute, tipo l'altra sera mangiava la pizza e la birra e ho detto adesso faccio una foto, la mando a tuo padre, così poi quando arrivi a casa ti mena perché devi essere in forma, no? Ho capito. E lui dopo si è messo a fare gli addominali nel camerino, si sentiva in colpa. Quindi lo sport c'è sempre nella testa del batterista. Sì, ma i batteristi normalmente sono molto sportivi perché certo. Hanno bisogno di fisicità, certo. Hanno una responsabilità proprio fisica. Io ricordo Bonzo dei Led Zeppelin, che era una macchina umana. Devono essere... Oppure abbiamo citato, a microfono spento, cari ascoltatori, abbiamo parlato di U, Keith Moon, che era un'altra macchina umana. Certo, assolutamente, devono essere così. E quindi lui, appunto, l'ho conosciuto in Inghilterra, fa parte anche del mio trio, insieme ad Aldo Zunino, che è un grande bassista italiano. E niente, l'ho voluto anche nel quintetto perché secondo me ci stava proprio bene e mi sembra che abbia fatto un ottimo lavoro. È una cosa interessante che tu mi hai detto prima, lo schema sì, l'ho fatto, ho scritto il pezzo, Dick l'ha arrangiato e c'era quel momento là dedicato al batterista, quel momento là doveva essere quella solo di batteria praticamente. Sì, assolutamente, ma di solito diciamo la griglia del come normalmente si costruisce un brano jazz, la griglia iniziale sono semplicemente 32 battute o 16 o quante sono, 12 se è un blues, e da lì poi si crea un arrangiamento attorno a questa griglia minimale. La griglia normalmente contiene il tema e la melodia e gli accordi, e poi si può fare un'introduzione come c'è in questo brano, ad esempio c'è un'introduzione dove inizio io col piano e poi si uniscono basso e batteria, e poi c'è il tema fatto dal piano, poi nella parte B del tema entrano i fiati e poi si va avanti, poi alla fine c'è il solo di batteria che diciamo prelude di nuovo all'introduzione e di nuovo la riproposta, certo, del tema finale per finire, ecco. Chiaro. Ok, a proposito di temi, 21 e 25, ora che suoniamo? Lo stavo per dire, mi hai anticipato, insomma. Andrea, tu sei qui personale, insomma, quindi oltre che a far sentire il tuo disco, insomma, stiamo aspettando dal vivo le tue... Una bellissima tastiera qua, che non cambierò più perché ci ha suonato Andrea, quindi... Beh, il minimo che puoi fare, certo, è così, giusto? Sì. Allora vi suono un brano sempre preso dal CD, anzi vi suono quello che dà il titolo al CD, che si intitola Gulls Flight. È un brano sempre di mia composizione, un brano un pochino più tranquillo del precedente. E niente, buon ascolto, Gulls Flight, adesso mi preparo. Certo, tanto finché lui si prepara, vi ricordo il nostro numero di SMS, se volete mandare qualche messaggio, qualche domanda ad Andrea Pozza, vi ricordo il 346 23 20 033, lui è disponibile a darvi tutte le informazioni, che insomma, anche le curiosità che avete da togliere. Adesso ci ascoltiamo questa canzone che dà il titolo a quest'album, cioè Gulls Flight. Luna, Dio sera. Blu Radio Sera. Che meraviglia, Maurizio, hai sentito? Sì, sì, ho visto le mani di Andrea, ho visto la velocità iniziale, poi ha rallentato, volutamente rallentato, fino ad arrivare al tema conclusivo del pezzo. Volevo leggere due note che ci sono all'interno del disco che mi hanno particolarmente colpito, che te le ha scritte Enrico Rava. Andrea dice: dentro di lui c'è tanto di quel jazz che quando finalmente si decide a regalarci un nuovo CD ci rendiamo conto di quanto la sua musica sia viva, straordinaria e imprescindibile, e conclude riferendosi alla nuova formazione di quintetto: speriamo che questo disco sia il primo di una lunga serie. I tuoi fans ti aspettano. Inutile dire che sono rimasto straordinariamente contento da queste belle parole che ha scritto Enrico, e lo ringrazio anche per questo, perché insomma io gli ho dato il CD, lui è venuto fuori con queste note che mi hanno fatto immensamente piacere. Insomma, quanto jazz c'è dentro di te? Tanto. Spero tanto. Spero di riuscire a tirarne fuori il più possibile, perché insomma mi dà tanta soddisfazione quando ci riesco. Senti, a proposito, io so che settimana scorsa hai fatto un concerto, il primo della tournée che sei appena cominciato, insomma. Com'è andata? Beh, è andata molto bene. Abbiamo fatto due serate, la prima a Genova al Borgo Club e la seconda a Milano una rassegna che si chiama Notturni in Villa, in Villa Reale. È un bellissimo posto, c'è una bella rassegna. Diciamo, sono andate tutte e due molto bene, specialmente la seconda, che era quella diciamo un pochino più importante per la cornice. È andata molto bene, c'era molta gente, c'erano anche dei colleghi che mi hanno fatto complimenti, insomma, quindi ero molto contento, sono stato molto contento. La band ha funzionato molto bene. So che c'era un sostituto, mi dicevi prima, insomma. Sì, purtroppo Christian Brewer, che è il sassofonista alto, l'altista inglese, ha avuto un grave lutto in famiglia e non è potuto venire. Allora ho chiamato a sostituirlo Claudio Capurro, che è un bravissimo altista genovese, proprio di Genova, che conosco da tantissimi tempi, da tantissimo tempo, proprio da quando eravamo bambinetti. E lui si è studiato i pezzi, è venuto a fare le prove, ha suonato, devo dire, magnificamente. Difatti sono rimasti tutti favorevolmente colpiti, anche gli altri componenti della band. Ti porto i saluti di Gianni e Stefania che ti stanno ascoltando. Ah, fantastico. Tu hai suonato 25 anni con Gianni Basso e hai suonato anche con Roberto Gatto, che faceva parte del gruppo di Enrico Rava. Perché ho citato Roberto Gatto? Perché Roberto Gatto spesso e volentieri è dei Trascorsi Rock, cioè ha fatto qualcosina dedicata alla musica rock. Grandi musicisti, grandi artisti. Com'è stato suonare per tanti anni con Enrico Rava? Che Enrico Rava, conosciamo la titolarità del personaggio. Sì, diciamo che è stata una grandissima esperienza. Prima hai nominato Gianni Basso. Sì. Sono due personaggi, Gianni Basso e Enrico Rava, che hanno proprio caratterizzato due periodi della mia attività artistica, della mia vita di musicista jazz. Con Gianni Basso ho cominciato a suonare quando avevo 17 anni. E è stato un po' come entrare nel mondo jazzistico classico, perché Gianni suonava proprio alla classica, come si suonava negli anni 50, nel dopoguerra. E è stato un grandissimo personaggio, molto rappresentativo del jazz italiano nel mondo, e mi ha proprio insegnato la maniera di suonare il jazz classico, diciamo. Poi dopo tanti anni ho avuto questo, mi ricordo che ero in macchina, ho ricevuto la telefonata di Enrico Rava, che mi diceva che mi voleva nel suo gruppo. Anche lì, cioè, il semaforo, l'emozione. Ho avuto un attimo di un'emozione forte. Sì, ho frenato. Non gli hai messo giù, vero? Non ho messo giù, per fortuna. Ma no, dai, non sei Enrico Rava. A volte succede, sì. Sì. E niente... È stata un'esperienza molto diversa, perché invece Enrico è un musicista più moderno. Sì, esattamente, più rivolto... per questo ha dei riferimenti anche con la musica rock, spesso e volentieri. Esatto, esatto, sì, ha sempre fatto anche esperimenti in quel senso lì. È un musicista che ha fatto parte dell'avanguardia, seppure Lui ama tantissimo Chet Baker, ama tantissimo Miles Davis, è tutto il jazz classico, e ce l'ha anche nel quando suona, si sente che ce l'ha dentro, però lui si spinge con molta nonchalance in qualsiasi area, diciamo, dell'avanguardia jazzistica. E questa esperienza mi ha dato proprio un'ulteriore, diciamo, spinta verso la creatività più a 360 gradi. Quindi sei partito dal classico di Gianni, sei partito all'evoluzione di Enrico Rava per poi sviluppare una tua musica. Sì, difatti è finita l'esperienza con Enrico, che è durata 5 anni, quindi è stata molto lunga e proficua. Niente, mi è venuto proprio la necessità e la voglia di fare qualcosa di mio, di tuo, più importante. Assolutamente, ecco, tuo, quindi esatto. Avevo già cominciato col trio, però un'ulteriore spinta, diciamo, creativa verso la mia musica, ecco. Certo, e questo ultimo progetto del quintetto può essere la sintesi di tutte queste cose oppure no, secondo me? Diciamo che è l'inizio della sintesi. È l'inizio della sintesi. Perché purtroppo, per fortuna, la caratteristica, quando fai un gruppo jazz succede sempre che tu hai delle idee, no? Poi le metti giù, provi col gruppo, si fanno le serate, la musica si trasforma e poi incidi. Certo. Incidi una cosa, ma nel frattempo ti sono venute altre idee, cioè già è quando... un'evoluzione continua. Sì, e quindi poi ti guardi indietro e dici sì, però se avessi fatto così, se avessi fatto cos'ha, ma vorrei un po' più di questo, un po' più di quell'altro. E seppur io sono molto, molto soddisfatto di questo CD, tra l'altro volevo anche salutare il produttore, che è Mario Caccia della iBeat Record, è il primo progetto che facciamo assieme dopo tanti anni che ci rincorriamo. E sono molto contento, appunto, che sia uscito un lavoro bello e che abbia, insomma, di cui siamo soddisfatti. Ecco. È stato inciso in Italia, bisogna dirlo a Biella, dicevi. È stato inciso in Italia, inciso... assolutamente italiano come sì, produzione. Come produzione italiana, sì. Anche è stato mixato a Ravenna, è stato inciso a Biella. E niente. È il primo di una lunga serie, insomma. Speriamo. Te lo chiedono i tuoi fans. Speriamo. Va bene, io direi di risentirti, insomma. Abbiamo voglia di sentirti ancora suonare. Ci fai qualcos'altro? Pezzo live? Certo. Allora sì. Suono, questa volta suono uno standard. Certo. Okay. Un pochino, suono un pezzo di Duke Ellington. Wow. Che è un titolo veramente difficile da pronunciare. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Bellissimo. Che significa? Se non ha swing non ha significato. Non ha significato. Andrea Pozza dal vivo qui a Blu Radio Veneto con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con la musica sua, questo straordinario pianista che ci regala queste emozioni in questa serata di luglio. Thank you. Maurizio. Io questo lo conoscevo. Ti vedevo muovere la testa. Sì, perché questo lo conoscevo, sto pezzo, uno standard famoso. Però la versione, io ho visto la, una cosa tu non hai notato perché eri distante, ho visto il battere del piede di Andrea, si faceva ritmo, una piccola batteria, una piccola percussione. Noi lo sentivamo da qua, noi lo sentivamo. Esattamente. Cosa dici? Sei stato, io sono stato estasiato dalla velocità di cambiamento della mano. Non seguivo la mano, veramente, fenomenale Andrea, veramente. Ha interpretato, vedi cosa dici? Ha interpretato uno standard di... esatto. Ma tu sei avvezzo a Duke, visto che ha fatto un disco, mi pare, un po' di anni fa, Plays Elton Monk and Himself. Sì, era il secondo disco che ho fatto, che ho inciso in trio. Per la Go 4, è giusto? Per la Go 4, una piccola etichetta di Ancona. A cui sono molto affezionato perché sono dei carissimi amici. E niente, sì, era un concerto dal vivo che poi è stato trasformato in CD, con Luciano Milanese e Stefano Bagnoli, due colossi, diciamo, del jazz italiano. Sì, c'erano brani di Duke Ellington, di Monk, certo, e qualche brano mio. Duke Ellington e Monk sono due, diciamo, monumenti del jazz che naturalmente amo molto. Però non li hai citate come i tuoi punti di riferimento: Mikey Turner, Paul Bley, interessante, chiaramente Bud Powell. Però non hai citato, nella tua biografia non viene citato Monk né Duke Ellington. Sì, forse è un errore. Ecco, un errore. Si deve metterci a rivisitarla. Andrea, ci porta i saluti di Alberto Lupimusso e dice: Andrea è stato mio maestro, bacioni a tutti, ti scrivo qui, insomma. Mi ha saluto caramente Alberto. E gli faccio tanti auguri per la sua attività. Certo. E poi ancora, qualcuno chiede... stanno ascoltando e dicono, uno dice: bellissimo, un vero piacere, ma puntini puntini, con quante mani sta suonando? Vi assicuro che sta suonando con due mani. Ti ho rubato la parola, ma... Salutiamo Antonio Bruno, comunque, che ha fatto con due mani domanda. E un piede sta suonando con il perché piede, devo dire che il piede è molto importante, ecco. Dice che il tuo piede è tarantolato, sì sì, il mio piede è tarantolato perché in realtà io suono col piede, nel senso che suono sopra al ritmo che mi tengo col piede. E beh, non sono l'unico, insomma, anche tra l'altro Thelonious Monk, esatto, sì. Io ho copiato, chiaramente. Non è che me lo sono inventato. E poi Antonella Gucci ti fa i complimenti, dice che sta ascoltando e sta ascoltando una grande serata di jazz, di grande jazz. Grazie mille. Bene. Dimmi Maurizio. No, sì, parlavi, hai inciso 8 CD a tuo nome con il trio, di cui anche uno molto interessante come titolo, Sweet Lorraine, che mi ricorda molto cose totalmente legate a certe, sicuramente no, tematiche country americane. Sweet Lorraine. Sweet Lorraine è un famoso standard che suonava Nat King Cole. Esattamente, poi l'hanno suonato in tanti momenti diversi, anche tipicamente in versione country. Ah, davvero? Sì, no, sì, l'ho sentito in versione country. Ah, fantastico. Adesso vai a documentarti se la trovi. Se la trovo, magari. Sweet Lorraine, poi c'è un altro titolo interessante, This Thing. A Drop This Thing, sì, credo che sia un brano mio, se ben ricordo. Sì. è proprio un disco dove c'è Alan Farrington, che nominavamo prima, e se fosse all'ascolto lo saluto. Magari ci sta, magari è qui in zona, chissà. Chi lo sa? Spesso a Padova, quindi insomma. Infatti, speriamo che si faccia vivo. Alan, dove sei? Alan, dove sei? Allora, vogliamo rientrare nel mondo di questo gabbiano, di questo, con un tuo pezzo dal disco, dato per farvi. Sì, senz'altro, volevo farvi ascoltare questo Cucurucucù, è un brano meraviglioso, secondo me, di Dick De Graaf, dove proprio c'è un senso di contrappunto che sentirete, insomma, molto, molto simpatico, che mi piace molto. Cucurucucù. Thank you. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21.55, sempre Blu Radio Veneto qui con la musica di Andrea Pozza e il suo nuovo disco che si chiama Gold Flights, che insomma è questo volo di gabbiano. Andrea, ti porto i saluti di Jacopo Jacopetti. Oh, grazie mille. Era questa la sorpresa che volevo farti, ma purtroppo mi ha mandato, l'ho sentito poc'anzi e mi ha detto che non ce la fa proprio a venire, insomma, voleva tanto venirti a salutare. Ma ci sarà un'altra occasione. Certo, ciao, magari Jacopo. Noi gli avevamo proposto una jam session, se si può. Sarebbe stato bellissimo. Però insomma, poi non sapevo se tu l'accettavi o meno, ma comunque insomma avevo piacere. Accettato sicuramente. Immagino, è stata un'idea anche di Maurizio. E insomma, però mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, non posso, salutamelo tanto e fagli tanti complimenti per la musica. Alla prossima. C'è anche una domanda per te, Andrea. E dice: aspetta, che la trovo più che altro. Allora, eccola qua. Dice, puoi chiedere ad Andrea Pozza com'è venuta la sua formazione musicale, conservatorio, scuola di jazz o entrambe? Ecco, la mia formazione musicale è cominciata col jazz, quindi mi ritengo in un certo qual modo un madrelingua jazz, diciamo jazzistico. E poi dopo ho fatto anche conservatorio, cioè sono entrato in conservatorio 10-11 anni e... però suonavo già il blues, per dire, improvvisavo già sul blues e difatti la madrelingua è rimasta quella, nel senso che la musica classica l'adoro, è fonte di ispirazione per me, ma sento che non è la mia lingua madre proprio, rimane sempre un linguaggio, cioè avrei difficoltà a suonare un brano di musica classica come musicista classico. L'ho fatto in conservatorio chiaramente per gli esami o per accompagnare a fare musica da camera eccetera. Ma fammi capire, dove sta la difficoltà in questo? È semplicemente un fatto, non è una cosa, una difficoltà, è un fatto di lingua. È come se tu dovessi presentare un programma in una lingua che magari conosci però non è la tua. Farlo in italiano un conto, dovessi farlo in inglese, insomma, è difficile, è dura, è una sensazione interiore di essere a tuo agio o essere meno a tuo agio. Quindi saresti completamente in difficoltà, insomma, vuoi dire questo? Ma no, lo farei, però non mi sentirei così a mio agio, insomma. Certo, immagino. Parliamo dell'European Quintet, perché il progetto che nasce, artisti europei, quindi olandesi, italiani e inglesi. Però tu giustamente al microfono spento mi hai detto sì, ma non esiste un vero e proprio, cioè la nostra matrice non è European Jazz, è la Stelle e Strisce, parte dal discorso americano. Sì, diciamo che è un po' un... il fine del progetto è un po' quasi paradossale, perché... Noi siamo europei, però musicalmente siamo madrelingua americana, come jazzistica, no? Siamo tutti noi del quintetto siamo così, come prima dicevo ad Agostino. E praticamente cosa succede? Invece, vivendo qua in Europa e assorbendo la cultura, inevitabilmente la cultura europea al conservatorio, negli studi, durante gli studi, anche soltanto ascoltando la musica classica, no? Abbiamo questa diciamo influenza e in questo CD io ho voluto metterla in evidenza in qualche modo. È come un po' un gatto che si morde la coda, perché non siamo degli americani che vogliono far sentire l'influenza europea, siamo degli europei che però sono madrelingua americana in qualche modo e però ritirano fuori praticamente la loro diciamo cultura europea. È un po' un gioco così. Anche se Dick fa un progetto di contaminazione, Dick De Graaf. Sì, Dick è un grande maestro diciamo in questa cosa qua, perché è tantissimi anni che la fa, abbiamo fatto anche un bellissimo CD su musica di Schubert, riarrangiate per gruppo jazz. E poi lui l'ha fatto anche sul, su musiche del rock. Tommy, parlavi di Tommy? Sì, parlavo di Tommy. Ho anche fatto parte di qualcuno di questi progetti. Diciamo. È una spinta, un equilibrio, cioè hai trovato un equilibrio giusto con Dick nel progetto European Quintet? Sì, sì, assolutamente volevo lui, per esempio per gli arrangiamenti, perché sapevo che avrebbe dato questo sapore, diciamo, avrebbe messo dentro gli arrangiamenti un sapore in qualche modo europeo, che in qualche modo poteva anche ricordare in alcuni punti la musica classica, però senza snaturare la matrice jazzistica americana di cui... che per me è imprescindibile, ecco, non mi piacerebbe neanche fare una cosa staccata dalla matrice americana. E così, insomma, abbiamo costruito questi brani. Poi anche, ad esempio, Shane, il batterista, suona in maniera molto americana, devo dire, molto legato a Elvin Jones. Christian Brewer, che è l'altista, ha anche lui suona in maniera americana e ha un suono molto, molto particolare, molto personale, che a me piace perché caratterizza proprio il gruppo in questo senso. E poi, ecco, volevo anche parlare, già che ci sono, di Jos Magtell, che è questo grandissimo bassista che ha questa tecnica oltretutto un po' particolare della mano destra che pizzica normalmente il bassista jazz pizzica con l'indice, col medio, no? Con tutte e due assieme, mentre lui sa anche fare così, ma a volte usa anche la tecnica, diciamo, tradizionale, ma normalmente quando lo vedete pizzica col pollice. Che influenza dà il pizzicare con il pollice rispetto alla tecnica tradizionale, anche dal punto di vista musicale stesso, che input può dare? Ma se uno non lo vede non se ne accorge in realtà, ci si accorge però che il suono è molto rotondo, è molto rimbalzante, diciamo. Caldo anche. Sei d'accordo? Caldo, volevo proprio sentire te, sei d'accordo? Caldo, caldo, dice sì. Andrea. Io proprio infatti stavo dicendo anche a Andrea prima che ieri sera mi hanno guardato qualche video che c'è appunto in rete di questo quintetto e avevo notato questa un po' particolarità del contrabbassista. E in effetti per quanto le casse di un computer possono rendere, però il suono era molto molto caldo, sì, questo sì. Quindi era l'idea, parte da quello, insomma, praticamente. Sì, mi diceva lui stesso che è una tecnica sviluppata dal suo maestro, un olandese, che ha modulato dalla musica classica, perché i musicisti classici, avendo l'archetto, quando devono pizzicare, non mollano l'archetto, perché magari poi c'è subito da suonare con l'arco, e quindi tengono l'archetto con le quattro dita e col pollice pizzicano, e lui praticamente da questa tecnica classica ne ha tratto questa tecnica jazzistica, che bisogna dire che funziona molto bene, certo. Anche se non è molto usata, perché... Certo. Hai ancora il piede tarantolato, Andrea? si tarantola durante il pezzo. Ecco, allora preparati. Intanto ti porto i saluti di Andrea, che è un tuo carissimo amico, cioè no, scusa, saluti ad Andrea dal tuo carissimo amico Antonello e assieme ad Anna. Di Sori. Ah, di Sori. Allora li ricambio. Che ti stanno ascoltando, li salutiamo. Andrea, cosa ci fai ascoltare adesso? Allora vi faccio ascoltare a questo punto un brano di George Gershwin, visto che vedo c'è la maglietta. Una bella maglietta della scuola di musica Gershwin. Un po' la scuola di musica Gershwin. Un po' di pubblicità alla scuola di musica Gershwin. Dai, però pubblicizzacela bene. Sì, no, veramente non l'ho mai visitata, però ho suonato tante volte. Mi ricordo le fatture dei concerti di scuola. Ebbene, l'amico Maurizio Camardi. Che ti saluta tanto. Che io saluto lui. E quindi, visto che c'è la scuola Gershwin, allora vi suono un brano di Gershwin che mi ha ricordato appunto Daniele e si intitola Love Walked In. Ok. Maurizio, noi siamo sempre in diretta ancora per circa 30 minuti con la musica di Andrea Pozza, stiamo deliziando gli amanti del jazz con la sua musica, soprattutto con la sua veramente enorme bravura. Sono le 22.04, dicevo, Blu Radio Veneto con Agostino, con Maurizio e soprattutto con Andrea Pozza. Thank you. lascio la parola a Daniele, voglio sentire il suo parere subito, immediatamente. E mi ha contagiato il piede, devo dire. avevo cominciato a batterlo con lui, niente, c'è poco da dire e tanto da ascoltare veramente Andrea, perché è un fraseggio bellissimo, un'interpretazione bellissima di un pezzo altrettanto bellissimo. Che tu conosci, scommetto. Che conosco, sì, che conosco, e ho sentito suonare più volte, insomma, però veramente ho apprezzato tantissimo la qualità, il tocco veramente. Ecco, il tocco di Andrea veramente mi piace molto, sì. Grazie. Veramente Andrea, sì. Poi se ti ho contagiato col piede, quello era il mio scopo, veramente. Guarda che stavamo per sovrastare il suono della tastiera. Infatti è successo una volta che stavo facendo le prove con questo grande sassofonista Lee Konitz, non so se lo conoscete, e niente, durante le prove io chiaramente battevo il piede come un dannato per remare, diciamolo, e lui si avvicina e mi dice: io con quel piede lì non posso suonare perché facevo troppo rumore. Poi il palco di legno, che poi esatto, il palco di legno, sì, è un disastro. A volte rientra nei microfoni, quindi certo. Però io fui pronto, sono stato pronto in quel momento, gli ho risposto: lì però io non posso suonare senza. Mettiamoci d'accordo. Siete messi d'accordo dopo, chiaramente. Una cosa volevo chiederti, Andrea: cosa si sente ad entrare in un pezzo come di un mito come Gershwin? Cosa si sente a riprendere un pezzo, a trasformarlo nella tua maniera, chiaramente? Che impatto c'è dentro, nel tuo intimo? Anche quello è una grande sfida di creatività, perché logicamente è un brano di Gershwin, è un brano che è stato suonato da tantissimi grandi musicisti, quindi ognuno ha dato la propria versione, e quindi la cosa più bella, inevitabilmente siamo sempre legati alle versioni che ascoltiamo, è difficile staccarsi, però è proprio quello, diciamo, la sfida è quello di trovare almeno qualcosina. Ad esempio in questo brano, che suona abbastanza in maniera classica, però l'introduzione faccio un pedale sempre della stessa nota, che è la stessa nota iniziale, e lo mantengo per tutto il pezzo adattando gli accordi a questo pedale. E questa qua, ad esempio, per dire, mio papà non gli piace. Perché lui ha quello tradizionale in testa. Sì, lui vorrebbe che non la facessi questa cosa, però. Cosa ci vuoi fare? Non posso farne a meno. Come il piede, insomma. Esatto, esatto. Andrea, cosa ascolti nei tuoi momenti liberi, diciamo, al di fuori della musica che stai studiando, insomma, voglio dire, i momenti di libertà assoluta mentalmente, diciamo, cosa ti piace ascoltare? Mi piace ascoltarmi un po' di tutto, devo dire. Hai delle preferenze, voglio dire? Sicuramente, statisticamente pendo sempre verso il jazz, sì, logicamente. Immagino. Mi piace però ascoltare molto la musica classica. Mi piace ascoltare molto i cantanti specialmente di jazz, devo dire, e Frank Sinatra o i classici, anche perché, diciamo, ascoltando i cantanti classici si imparano molto bene i temi, le melodie che poi magari uno deve suonare. Io negli anni 80 avevo un idolo che probabilmente tu conoscerai, si chiama Lou Rawls, te lo ricordi? Io purtroppo devo dirti... No, non lo conosci? Faceva jazz, comunque, è nato dal jazz, veniva dal jazz americano, era stato considerato la voce più bella anche di Frank Sinatra. Ah, cavolo, mi manca. Ti farò ascoltare qualcosa. Mi fai un CD? Certo, volentieri, guarda. Te lo farò sentire più che volentieri. Beh, insomma, comunque, tornando a noi, ascolti soprattutto quella musica là, insomma. Sì, ascolto soprattutto quello, poi ascolto magari le cose ultime, magari gli ultimi dischi usciti, specialmente, non so, di Herbie Hancock, i personaggi importanti, Keith Jarrett o Brad Mehldau, diciamo, per vedere cosa combinano, cosa si inventano. noi rocchettari convinti ci siamo approcciati, spesso volentieri ci siamo approcciati al jazz, perché c'è un personaggio, è ancora adesso straordinario, si chiama Ojaro, ha ripreso Your Song di Elton John, e l'ha ripresa in versione un po' particolare. Lui ha una voce molto jazzata, fa dei vocalizzi veri e propri. Non so se Ojaro fa parte del tuo quid sonoro. Ma devo dire, qualche volta l'ho ascoltato e mi piace molto. quando fa le cose più jazzistiche si sente che lui non è un jazzista, no, puro, assolutamente. È un prestato al jazz, forse. Sicuramente ama il jazz. Sì, ama il jazz e quindi qualche cosa è entrato nel suo modo di cantare. Poi è un grandissimo cantante. Insomma. Tu consideri Frank Sinatra la voce più bella del jazz contemporaneo, degli ultimi tempi contemporanei? Frank Sinatra se n'è andato un po' di anni, chiaramente. Però perché Frank Sinatra, tu hai detto, scontando Frank Sinatra, imparo quando certe cose, certi pezzi che devo suonare? Beh, diciamo che lui ha significato proprio gli standard del jazz. Li ha portati famosi, sono diventati famosi grazie a lui. Sì, diciamo che ha avuto questo ruolo di, come si può dire? Per dirlo in termini sportivi, apripista, possiamo dire. Si dice, quando si parla di un crooner, tutti si riferiscono, cioè diciamo un caposcuola, non so come chiamarlo, forse è un caposcuola, perché lui cantava così, in maniera naturale, così, e così si è imposto, è stato quello che, diciamo, ha imposto il suo standard a tutti. Tutti gli altri cercano poi magari di caratterizzare, per appunto per differenziarsi da quello, perché sennò uno sembra che imiti una Sinatra. Sì, esatto. Se uno che lo vuole imitare, Mike Bublé, che lo vorrebbe imitare. Sì, certo, Michael Bublé, a me piace moltissimo, per dire, logicamente. Frank e basta. Comunque una sua personalità, anche Michael Bublé, insomma, assolutamente, per quanto voglia assolutamente. Sì. Poi c'è anche da dire che bisogna anche, per apprezzare la personalità di un artista, bisogna aspettare anche un po', cioè, se alcuni capi scuola, Charlie Parker, se ne escono fuori a 25 anni, Mozart, certo, questi geni, no? Però ce ne sono pochi. Altri invece, magari lo stesso Coltrane, diciamo, un po' più tardi è arrivato a fare le cose, sulle cose più importanti. Chiaro, no? Quindi a volte la maturazione richiede tempo. Ecco. Quindi uno come Michael Bublé, secondo me, che ha già assorbito molto la lezione, se vogliamo chiamarla così, di Frank Sinatra, magari fra qualche anno, se invece si trasforma, no? Sì. Per dire, Sonny Rollins, il grande sassofonista, all'inizio suonava esattamente come Charlie Parker, quindi è poi da lì che ha preso una sua via, autonoma. Infatti. Vai. No, stavo dicendo, c'è Elsa qui che mi chiede se conosci i testi delle canzoni, quando le fai, soprattutto quelli standard, e quando sono importanti per te, insomma. Mi piacerebbe conoscerli di più. Ti piacerebbe? Sicuramente qualche cosa conosco, ma non, purtroppo non ho approfondito tantissimo questo aspetto. Bisognerebbe conoscerli, sì, effettivamente hai ragione. E poi avete un artista in comune, cioè Billy Evans, e devo sapere quanto ha influito, insomma, nella tua carriera. Billy Evans tantissimo, perché proprio è stato il mio primo amore, che è durato almeno una decina d'anni, cioè da quando ero bambino fin quando sono riuscito anche a vederlo, tra l'altro mio padre mi ha portato al Castello Sforzesco a Milano, uno dei concerti ultimi penso che abbia fatto in Italia, perché poi pochi mesi dopo è mancato. E per tanti anni ho ascoltato quasi esclusivamente lui, avevo proprio una monomania, e devo dire che ancora adesso quando mi ascolto ci sono tantissimi elementi di Bill Evans che non lo so quanto l'ascoltatore possa sentirli, io li sento tanto, specialmente in certe cose del fraseggio, e una maniera di fraseggiare, ritmiche anche, insomma, sono molto influenzato sicuramente. Andrea, ritorniamo dentro questo volo di Gabbiano, allora, dentro questo... Sì. Ci ascoltiamo l'ultima canzone estratta dal disco e poi ci salutiamo, perché purtroppo l'ora e mezza già volata via. Ti porto i saluti prima delle tue parole di Seve Lekar, che dice: oltre che molto bravo, lui le cose le sa e te le insegna, basta ascoltare. Grazie. Ve la ringrazio tantissimo. E quindi ascoltiamo Le Poirier Fatigue. Molto bene, molto bene. Ecco il pezzo. Cerchiamo particolarmente. Molto bene, perché è un pezzo diverso, secondo me, nella scaletta. Una sperimentazione, cioè l'hai portato un po' fuori, volutamente fuori nel senso positivo del termine. Io ho sentito qualcosa del pianismo di Satie, quindi del Novecento. Non so se sei d'accordo sulla mia sul sì, mio sicuramente, giudizio. Perché è un pezzo molto delicato, è un pezzo di Dick de Graaf, è arrangiato sempre da lui stesso e si basa un po' su questo tema che si ripete e poi non c'è neanche l'assolo di piano, il piano fa il tema e poi c'è un assolo, diciamo, dei due sassofoni che si scambiano un po', un dialogo, è un pezzo molto delicato. L'ascoltiamo. Ok? Le poirie fatighe. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, abbiamo volato con questo gabbiano e le sue ali, questo disco di Andrea Pozza, che ci aspettiamo per il prossimo. Andrea. Sì, sicuramente, verrò molto volentieri. Sei già, l'hai già detto tu, quindi sì. La promessa tua. Mi prenoto. Allora, siamo arrivati alla fine, Andrea. È stata una piacevolissima chiacchierata, abbiamo cercato quantomeno, insomma, per quel poco possibile che ci è stato possibile fare, di scoprire un po' di più il tuo mondo, la tua musica, il tuo modo di essere. Io vi ringrazio, è stato molto piacevole, graditissimo, diciamo, essere qua con voi. Se vuoi ricordare gli appuntamenti live e anche dove si può trovare il disco. Ah, ecco, il disco lo potete trovare in tutti i migliori negozi, come si dice, quelli che sono ancora rimasti di dischi, vabbè. Oppure anche online, forse è più facile, lo trovate sulla Feltrinelli Digital, si chiama così, non so, su iTunes, sicuramente su Amazon li trovate. E ricordiamo l'etichetta è la Ebit Record di Mario Caccia, che io saluto, spero che sia in ascolto. E niente, ringrazio ancora una volta la Top One Communication di Stefania e Gianni. E niente, se volete venirmi a sentire, sarò domani con Steve Grossman in duo a Carrara, in Piazza delle Erbe. Poi sarò domenica prossima ad Agazzano, che è vicino a Piacenza, con Mattia Cigalini e Tullio D'Episcopo, ospite Luciano Milanese a contrabbasso. Poi a Pergine, vicino a Trento, con Bonaccorso, martedì prossimo, il 17. Poi il 20 con Scott Hamilton a Ferrara, Porto Maggiore. E poi c'è un bellissimo concerto con una grande cantante, si chiama Patrizia Conte, una tarantina che vive a Milano, a Pinerolo, il giorno dopo, il 21, il 22 con Rossano Sportiello a Modena per un duo pianistico al club La Meridiana. E niente, spero di incontrare qualcuno degli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Chissà, perché no? Speriamo. Alberto Lupimusso, per esempio, ha avuto un contatto con una casa discografica grazie anche a noi, insomma, alla serata che ha fatto qui l'anno scorso. Sì. Allora, Andrea, se qualcuno invece ti volesse contattare, sito, quant'altro? Il mio sito internet è sempre aperto, come si è www.andreapozza.it. E trovate i concerti, trovate insomma i link per i dischi, materiale, curriculum, insomma news varie, insomma io tento di aggiornarlo, è una cosa molto fatta bello, da me. Tra l'altro il sito. Davvero? Sì, l'ho visto. Perché Gianni dell'agenzia stampa un po' mi criticava, ma loro sanno bene cosa bisogna fare. Allora, ciao Stefania, ciao Gianni, a proposito. Ciao. Allora, Andrea, grazie ancora di cuore da tutta Blu Radio Veneto di essere venuto qui questa sera. Grazie a voi, è stato un grande piacere e complimenti per la trasmissione, perché veramente va dentro, diciamo, la musica, e, insomma, è una cosa bellissima. Ti ringrazio di cuore di queste parole. Con cosa ci salutiamo? Ci salutiamo, a questo punto mi piacerebbe suonare tanto un blues, perché no? Nel jazz ci vuole, bisogna suonarlo un blues. Ed è? Blue Monk di Thelonious Monk. Okay. Maurizio, grazie anche a te. Grazie a te, Agostino. E ci ringraziamo Daniele. Domani. Grazie a voi. Grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie. Daniele, grazie. È stato fondamentale. Per la tastiera. Grazie a voi. E noi ci sentiamo domani sera. Domani sera con. Siamo di nuovo qui. Tra 24 ore, tra meno di 24 ore, sì. Siamo di nuovo qui con Chiara Beltrami. Esattamente. Allora, ci salutiamo con l'ultima canzone, appunto, di Andrea Pozza. Buon proseguimento all'ascolto di serata con Blu Radio Veneto.